te mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. In un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. L'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Ormai credo manchi poco, intorno alle 19 dovrebbe concludersi, quindi ancora un paio di ore l'ultima giornata di calcio mercato, sì, sarebbe quello di riparazione, quelli che a gennaio magari che so, hanno degli infortuni o serve qualche giocatore, allora è il mercato di riparazione. Oggi è l'ultima giornata sino alle 19, partita stamattina con la firma di Guarin per l'Inter, il colombiano giunto ieri a Milano firmerà oggi per i nerazzurri. Alle 8.40, ancora stamattina, era quasi fatta per Kučka, poi c'è la Juve che non ha preso né Guarin, ha preso Paduin dall'Atalanta. C'è la sicura partenza di Thiago Motta per il Parigi, Paris Saint-Germain. Poi c'è Krasic della Juve tra Lazio e Zenit. La Juve punta ora a sistemare alcuni affari in uscita, naturalmente. Poi dovrebbe arrivare Honda alla Lazio. Già c'erano pronti i giornalisti giapponesi, dicevo, preso Paduin. Milan nel mirino Palombo, ieri un vertice tra Allegri e Galliani per decidere sull'acquisto di un centrocampista dopo il KO di Merkel. Moratti passa all'assalto anche per Palacio, ma credo non si muova da Genova. Ci sono il Napoli anche che voleva muoversi per Candreva, ma credo non si faccia. Al Cesena dovrebbe andare anche Iaquinta dalla Juve. Poi altre mosse, diciamo, grosse. Pazienza all'Udinese, pressing finale dell'Udinese sulla Juve per avere pazienza. L'annuncio è vicino, vedremo se entro stasera arriverà questa notizia. Allora, ufficiale, Muntari al Milan. Milan ufficializza l'ingaggio di Solle Muntari, il centrocampista ghanese che arriva dall'Inter con la formula del prestito. Inzaghi che rifiuta Siena, e poi anche all'Inter è ormai ufficiale Palombo, che doveva andare al Milan, invece no, va all'Inter. Morimoto, che doveva, ecco, là, ecco la presenza dei giapponesi. Morimoto doveva andare a Chievo, invece no, perché dopo le visite probabilmente è stato qualcosa che non andava. E poi vabbè, tutto come preannunciato. Jamiroquai, Space Cowboy, che bella questa canzone, ce la portiamo dietro da un bel po' di anni, un bel po', poi non è che siano poi tanti tanti tanti. Anche oggi potrei fare l'appello, ma io sono convinto che dall'altra parte ci siete tutti, sono degli amici che ormai aspettano che arrivi l'alba per iniziare a sintonizzarsi sulla nostra radio, iniziare a seguire la nostra radio. Ma poi specialmente c'è Ignazio, che volevo salutare, il nostro amico dal Bronx. Lui, per ora, per esempio, Ignazio, mi fai sapere che ora è in America adesso? Dovrebbe essere... è indietro, ma boh, io non lo so. Ignazio, per favore, please, Ignazio, tell me what time is it now in the USA, please. Yo-yo. Che bella questa canzone, mi piace. Da un certo, se poi si dice che il mattino si vede, com'è, il buongiorno si vede dal mattino, meglio di così. 17:25. La radio che si sente e si vede, devo salutare ogni volta, io ricordo l'ora, devo salutare anche gli amici che ci seguono in notturna durante le nostre repliche, perché poi magari qualcuno pensa ma che questo sta dando i numeri. No, no, è solo che il programma che seguite in notturna, in replica, la puntata in diretta va dalle 17 alle 19, si chiama On The Road e con voi c'è Robin Antoni anche per oggi insieme, oggi che è il martedì. Oggi che giorno è? Martedì quanto? Ultimo! È l'ultimo di gennaio! Va via gennaio! È il martedì, è il 31. Ah, sono le 11:25. Grazie Ignazio, ma le 11:25 o le 23:25? 11 del mattino, in the morning! Eh? Anti-meridian! O post-meridian, boh! It happened. Today, hooray, hooray, it happened, hip, hip, hooray, we'll be the allegory to another Bible story, out of deference, defiance, choice, closing on a promise after. After all I've done today, I have earned my voice. It happened today, hooray, hooray. It happened, hip, hip, hooray. Sono quelli di Losing My Religion, Ram e Up Not Today. Che bella la canzone, iniziamo ad accontentarle le vostre segnalazioni dalla fredda Gangi, no? Fa freddo Antonella Gangi, no? Alessandra Amoroso. È quasi mattina, continua a dormire se vuoi, che stare in silenzio ci fa meno male. Magari torno più tardi, fuori fa freddo ma non tremo per quello. Fuori fa freddo e dentro inverno, e un giorno rinasce mentre siamo impegnati a perderci. Sarebbe un peccato stare a guardare. Oggi mi sembra diverso, il tuo buongiorno amore non è lo stesso. Ieri era estate ed oggi inverno. Fermati un attimo e dimmi che cosa vuoi fare, però che vuoi restare. E questo tempo difficile va male, ma sì, abbiamo ancora tutto da inventare. Guarda che non si cancella una vita così, che te lo dico a fare. E questo amore impossibile è la storia di un film che non ha mai un finale. È vero che vuoi restare, è vero. In cucina come macchine ferme a un semaforo. Ti dico un segreto, non so abbandonare. Anche se tutto è diverso, ho così freddo amore, credimi adesso. Domani estate finirà l'inverno. Fermati un attimo e dimmi che cosa vuoi fare, però che vuoi restare. Questo tempo difficile va male, ma sì, abbiamo ancora tutto da inventare. Guarda che non si cancella una vita così, che te lo dico a fare. E questo amore impossibile è la storia di un film che non ha mai un finale. È vero che Sì, per due ore. Almeno. Dico almeno per due ore. È vero che vuoi restare. Alessandra Amorosa, richiesta da Antonella. Però mi stranizza la cosa che fa freddo, freddissimo, però ancora non nevica. Speriamo che non nevichi. Perché poi sapete, no, con la neve c'è sempre il blocco, la gente si blocca, soprattutto ad andare su in montagna, va bene. Allora è meglio che rimanga così, anche se la temperatura, a detta degli esperti, degli addetti ai lavori, scusate il gioco di parole, dovrebbe ancora scendere, arrivare ancora aria gelida dalla Russia. E allora intanto vi dico che partirà lunedì 20 febbraio il secondo corso di formazione radiofonica organizzato da CRM Happy Radio con il patrocinio del comune di Cefalù. Il corso che avrà una durata di 4 settimane fino al 24 marzo, quindi durante le quali gli aspiranti speaker, fonici e animatori avranno la possibilità di apprendere direttamente sul campo quelle che sono le peculiarità del mondo radiofonico, in particolare il flusso di lavoro e di organizzazione di un'emittente radiofonica. Gli studenti avranno anche la possibilità di confrontarsi direttamente con gli speaker, i redattori, si partecipa attivamente alle trasmissioni, alle registrazioni, all'organizzazione del palinsesto. A tale parte pratica verrà affiancata anche una parte teorica con argomenti riguardante l'audioting, la direzione, l'addizione, scusate, poi anche la conduzione, l'animazione, tutte queste cose che fanno sì che poi potete apprendere queste nozioni e magari, se ne avete voglia, continuarle, e chissà che un giorno non diventiate anche voi degli speaker o degli animatori. La direzione CRM Piredio si riserverà naturalmente il diritto di selezionare gli aspiranti partecipanti sulla base del curriculum vitae ricevuti e dall'esito del colloquio selettivo. Vi ricordo che la partecipazione al corso è totalmente gratuita e alla fine delle 4 settimane verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E allora, vi state chiedendo come partecipare? Facilissimo, le selezioni già sono aperte dal 18 di gennaio, saranno aperte sino al 18 febbraio, il candidato può inviare il proprio curriculum vitae presso formazione@crmpiredio.it e poi naturalmente riceverete le notizie dalla nostra redazione, dai nostri direttori, quindi affrettatevi se ne avete voglia, se volete partecipare a questo secondo corso di formazione radiofonica che parte, ripeto, lunedì 20 di febbraio. Intanto voi continuate ad inviare i vostri curriculum e io che faccio? Vi regalo la musica più bella. I heard that you're settled down, that you found a girl in your married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. Hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never. Sometimes it lasts. Ultimamente gira un altro singolo, il nuovo, però io continuo a preferire ancora questo qua, Someone Like You di Adele. Adesso un attimo di pausa, poi torneremo ancora con un flashback, un disco che ci riporta indietro nel tempo, e sentirete quanti ricordi emergeranno. The Road Flashback. Finale. E oggi è il countdown finale, dicevo prima, per quanto riguarda il calciomercato, calcio di riparazione, anzi mercato di riparazione in questa ultima giornata, oggi che è il 31 di gennaio. ancora un paio d'ore e poi si saprà quali sono stati gli ultimi movimenti da parte delle società. Vedremo, vedremo, vedremo un po'. Ve l'ho voluta regalare perché è una bella canzone, quindi di diritto entra in questa finestra che poi racchiude un po' tutti i grandi successi del passato. Il flashback, intanto ancora Vasco. Con me, Vasco, che avete sentito ieri la notizia che la nota rivista Rolling Stone Italia ha votato l'album Bollicine come miglior album di tutti i tempi, delle canzoni, credo tra quelle che più si ricordano in assoluto. E in queste canzoni poi c'era quella dove c'è Vita Spericolata, eccetera. Ieri ne ho fatto sentire un'altra. Ma attenzione, perché è arrivato il momento di ospitare il nostro opinionista, Rambo! Dov'è? Qua? Rambo! Quasi a me, tanto sì! Senti, ma ultimamente ti sento un po' a singhozzo. Che è successo? Sembri dentro... Sono a campo sportivo. Allora, Rambo... Il fatto che io ti senta a singhiozzi non è il fatto che tu sia raffreddato, non per forza deve essere perché tu sei raffreddato, perché prende male, si sente male la linea, che è il brutto tempo? Forse il telefono. E sarà il telefono, lo devi cambiare. Devo cambiare, ho il telefono 15 euro. Devi cambiare il telefono, Rambo. Sì. Ma che sono tutte ste grida? Dove sei? È la mia cuore del palo, si sentirebbe qua. Ma dove sei? A campo sportivo. So. Ah, beh, certo, l'opinionista sportivo dove può essere? Perché sei al centro del campo, no? Perché sta piovendo. No. Ti devo venire a trovare. Come? Ti devo venire a trovare. Mi devi venire a trovare? Sì, o che giorno? Certo, certo. Allora, Rambo, hai sentito le ultime novità del calciomercato? L'Inter ha preso Guarin. Poi ha preso... L'Inter può pigliare a Rummenigge. Quella cosa può pigliare? L'hanno avuto già Rummenigge. Non è fa strada tanto l'Inter. Ha preso anche Palombo. Già Palumbo, e Dino pure pigliò. A Guarin, amico mio, Giuseppe mi ha preso Guarin, il tuo. Sì, sì, ha preso Guarin, ha preso... Guarda, fa vincere lo scolletto. 9 punti dalla Juve sono un po' troppi, no? Oh no, mi attaccava tutte per il Parma. Tanto stasera mi attaccavo Parma. E allora stasera c'è il Parma, vero? Voglio andare a prosciutto cotto stasera. Senti, ti saluta Massimo dalla Svizzera. Grande, ciao Massimo. Io credo che ci sarà la neve in Svizzera per ora, no? Però freddissimo, Massimo. E allora Rambo, noi abbiamo preso, non abbiamo preso Guarin, abbiamo preso Padoin dall'Atalanta. Questo servirà, è un buon. Ho capito, Roberto, l'hai detto? La Juve ha preso Padoin dall'Atalanta. Ah, Padoin dall'Atalanta. Sì, sì, sì, sì. Ma che c'è il suggeritore accanto? Sì. Pino, ti saluta Pino. Ciao Pino, salutamelo Pino. Ciao Pino, sarebbe con la mia telefono. Sì, sì. Salutamelo. Ciao, saluta un po' tutti i ragazzi. Adesso è dal campo, no? Ci saranno. Sì. C'è allenamento. Stiamo vedendo la partita, ragazzi, qua. La partita, stanno ammazzando quei cani. Che meno male. Stanno divertendo tutta l'acqua, bello. Sì, meno male che è una partita tra amici. Sì. C'è l'allenamento, giustamente devo giocare. No, c'è la partita giusta che fai. Ma ci rientrate ai playoff, Rambo? Ci tentiamo. Sì, dobbiamo farcela, dai, che poi. Noi siamo a 4 punti, diciamo. 3 punti del Mestretta, 1 punto del San Basilio. Tanto ancora il campionato è lungo, c'è la possibilità di farcela. Sì, ora sabato andiamo a giocare a capovolata. Quindi derby. Se facciamo un risultato, ci andiamo a 26 punti, già è una cosa buona. Perfetto, allora abbiamo parlato di calcio non professionistico, quindi prima categoria, credo, giusto? Sì, campionato di categoria, girone C. Girone C. Abbiamo parlato anche del calciomercato. Stasera la Juve va a Parma, ma io non so se si gioca, perché c'è tanta neve un po' ovunque e non so se effettivamente... No, non si sa, Roberto, non si sa. Ancora non si sa, vedremo. Se a Napoli per un po' d'acqua hanno sospeso la partita e là poi c'è da vedere perché è stata sospesa, chissà che stasera non possa essere sospesa. Già domenica abbiamo giocato, sabato scorso abbiamo giocato con la neve a Torino quando è stata contro l'Udinese, visto che... Abbiamo vinto 2-1 perché siamo più forte. Chissà che la neve non ci porti bene, Rambo. Stasera vinceremo, Roberto, 2-0 a Parma, perché ho detto il prosciutto cotto. Ma lo sai che a Parma c'è il nostro ex gioiellino? No, non interessa perché c'è Giovinco, ce n'è proprio stasera. Va bene, Rambo, dimmi. Metti il brano di Allora sei tu, Michele Telo. Quale? Melissa, quando mi dico, No, me la devi dire tutto. Qual è? Dimmi il titolo. Melissa! Ecco, cantala un po', cantala, io non l'ho capito qual è, cantala. Melissa, la domenica mi vado a lavorare. E le prigione dormo. Ciao a tutti! Ciao Rambo, ci sentiamo domani! Ciao Robby, forza Juve! Sempre, ci sentiamo domani! Ciao Rambo! Ciao! Stop the world and make you mine. credo sia il più giovane dei fratelli Gallagher, ex Oasis. Noel Gallagher, si chiama If I Had a Gun, questo nuovo singolo. Si porta di diritti all'appuntamento con l'informazione. Poi torneremo ancora con un flashback, un disco che ci riporterà ancora indietro nel tempo. Voi state lì perché ormai avete scelto la radio giusta. C'è Roby D'Antonio con voi. On the road. Flashback. We'll be right back. Che chitarra! Oggi un po' rocchettari questi passaggi con il flashback, in questo caso This for Fears, semplicemente Shout. Oh, siamo al giro di boa. Non vi preoccupate, insieme staremo ancora un'oretta, quindi sino alle 19 se state seguendo la puntata in diretta, sino alle 2 se siete in replica, perché l'appuntamento in replica va da mezzanotte alle 2 circa. Quindi ancora un bel po' di carne al fuoco, ma anche per i vegetariani c'è un po' di materia. Leggendo questa notizia che riguarda la Concordia, adesso è troppo pericoloso immergersi, e allora sospese definitivamente le ricerche dei dispersi. La ricerca nella parte sommersa della costa Concordia è stata definitivamente sospesa. La decisione è stata presa dai soccorritori perché sono venute meno le condizioni operative di sicurezza. La decisione è stata comunicata al commissario per l'emergenza Franco Gabrielli, ai familiari e alle ambasciate. La decisione presa dal direttore tecnico dei soccorsi, il comandante dei vigili del fuoco di Grosseto, Ennio Aquilino, di comune accordo con tutti i responsabili delle strutture operative che sono state impegnate in questi giorni nell'attività di ricerca, e dopo aver sottoposto al comitato le informazioni ricevute dai sommozzatori in merito allo stato di deformazione dello scafo della nave in corrispondenza dei varchi aperti nei giorni scorsi. Poi c'è un po' di timore, visto che la nave ultimamente si è mossa un po' più del dovuto. Mancano ancora all'appello 16 persone, già 17, uno dei quali ancora deve essere identificato. I morti accertati del naufragio dello scorso 13 gennaio. Ancora 16 persone mancano quindi all'appello. Intanto non sono ancora ripresi i lavori preparatori all'estrazione dei serbatoi dei quasi 2000 delle 2400 tonnellate di carburante interrotte nei giorni scorsi a causa del maltempo. Proseguiranno invece le ricerche nella parte emersa della Concordia per verificare alcune zone dello scafo e si continuerà a scandagliare in maniera ancora più mirata 18 km quadrati di mare perlustrati nei giorni scorsi, con l'obiettivo di verificare se gli obiettivi individuati possano corrispondere ai corpi delle persone ancora disperse. Vedremo un po'. Tutto sta che ormai sembra quasi impossibile, a meno che di un miracolo, dopo 18 giorni trovare qualche superstite. Noi naturalmente ce l'auguriamo. Sono stati altri casi, magari non in questo caso, scusate il gioco di parole, ma magari in delle tragedie, dei terremoti, dove dopo tanto tempo sono stati ritrovati dei superstiti. Quindi speriamo veramente che possa succedere un miracolo, anche se ormai il fatto che sia troppo pericoloso immergersi, hanno definitivamente sospeso le ricerche. Pensate che si diceva che probabilmente adesso ci vorrà un anno circa per sgomberare il mare dal relitto, cioè un anno intero. Veramente una cosa incredibile. Va bene, sono notizie veramente che fanno rabbrividire, notizie delle quali non vorremmo mai parlarne, però purtroppo, come dicevo, un grande, the show must go on. Vi regalo gli Swing Out Sister. Questa canzone Breakout, Swing Out Sister, 18:22, ancora buona serata, attention, perché, ladies and gentlemen, devo parlarvi di cinema, quello che è successo nel weekend, fortunato per il cinema italiano, in particolar modo per Bisio e la sua troupe. Sentite, sentite, questa è una notizia bellissima quando soprattutto si parla di italiani. Io sono fiero e contento. Perché dico questo? Perché i big di Hollywood, da Tom Cruise a Marilyn Streep, possono anche scannarsi fra di loro, scusatevi il termine, ma per il secondo posto, perché il film campione di incassi è tutto italiano. Al secondo weekend di programmazione, Benvenuti al Nord, il film di Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani, ha superato il 21 milioni di euro. Il segreto? L'area di paese, di provincia, questo dice il regista, non è una commedia generazionale, ma né sentimentale, ma umana. E se al primo weekend una certa curiosità del pubblico verso il sequel di un film così popolare come Benvenuti al Sud era prevedibile, la conferma al secondo weekend con il cinema un po' tutti esauriti, un totale di oltre 20 milioni di euro era auspicabile, ma non certo nel conto, e chiaramente fa piacere a tutti noi perché si tratta di un sequel a fare quei numeri ancora più difficili effettivamente, anche se poi c'è la curiosità, no? Perché tu dici, c'è la curiosità, ma il secondo sarà come il primo, andiamolo a vedere, eccetera eccetera. Il film a grande richiesta degli esercenti occupa le sale di 814 rilevate da Cinetel. In due sole settimane è diventato il film più visto della stagione, superando di 2 milioni e mezzo di euro Sherlock Holmes e Gioco di Ombre, che ha incassato 18 milioni dispari. Il sequel sta riuscendo nell'impresa di fare meglio del precedente, arrivando a doppiare i suoi incassi. Il primo Benvenuti, infatti, dopo 12 giorni in sala superava di poco gli 11 milioni di euro. Mission Impossible, Protocollo Fantasma, questo uscito nel weekend, il film di Tom Cruise, in 575 sale, è al secondo posto con 2 milioni e 300 mila euro. Il confronto tra le diverse anime del nostro paese vince alla grande contro i colossi americani. Chissà cosa ne pensano Claudio Bisio, Alessandro Siani, Luca Miniero, è un terzetto d'oro, ma quando il nuovo film, qualcuno si chiede, e siamo legati ormai da amicizia, abbiamo tutti voglia di lavorare insieme, non credo si possa fare un sequel tipo Benvenuti al Centro, questo lo dice il regista, però un futuro film, noi tre dopo i rispettivi impegni contiamo di farlo, vedremo un po' quale sarà il prossimo che riguarda questo trio. Davvero forte, forte, fanno ridere, sono bravi, bravi attori. Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli ideali. Perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica. continuo a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Roberto Vecchioni, reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, poi ne parleremo anche perché ci sono delle notizie che riguardano proprio l'ultima edizione del Festival di Sanremo, con questa presenza più o meno di Adriano Celentano. Vedremo se effettivamente andrà, poi si vocifera che il compenso verrà dato ai poveri. Vedremo ancora una mezz'oretta insieme. Adesso riacquistiamo un po' di quota, piano piano. Benvenuti nell'Otto Volante con Gabriella Cilmi. Precipitando. finisci, mentre una radio sta annunciando che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più camminare senza tè o caffè, mi fa schifo nuotare, non so più galleggiare. Sento che stai precipitando dentro la mia disperazione, che laggiù la pace ancora non c'è, che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare, non so più cosa c'è, non so più cosa fare, non so più cosa c'è. Sono senza te, non si sa, non so più galleggiare, mi fa schifo anche il mare. Sento che stai precipitando, cosa serve? Dentro un acquario senza pesci, cosa faccio? Mentre una radio sta annunciando, cosa serve? Che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare, non so più cosa c'è, non so più cosa fare, non so più cosa c'è. Io subito subito sono andato a informare che fine faranno questi soldi che guadagnerà Celentano. Sono 350.000 euro a settimana, almeno qualcuno così diceva, 700.000 in due serate. Intanto il direttore del festival, in concomitanza con cioè in accordo soprattutto con Celentano, ha letto una lettera, quindi di comune accordo con Celentano, in cui spiega dove andranno a finire i soldi del suo cachet. Ad oggi nessuno sa quante serate farà. Per una serata sono previsti 350.000 euro, per due 700.000 euro, 3, 4 o tutte e 5 le serate, il convento non si sa. Fatto sta che il compenso, l'unica cosa che si sa, è di 750.000 euro. Allora lui ha fatto, ha chiamato 7 sindaci di 7 città, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. Ha chiesto loro, il supermolleggiato, di segnalargli nomi di famiglie in condizione di assoluta povertà. Nel caso di 350.000 euro, 100.000 andranno ad un ospedale di emergency, che però non è in Italia. 250.000 euro andranno a 13 famiglie, vedremo un po', poi ci saranno altri soldi, altri 200.000 euro a due ospedali di emergency e 500.000 euro destinati, ma quanto soldi sono? A 200 famiglie, per i 50.000 euro in più aumentano a 27 il numero di famiglie aiutate, vedremo un po' quante ne aiuterà. Lui consegnerà il denaro in forma privata alla presenza di Claudia Mori, mentre invece durante la serata consegnerà le buste a un notaio, credo proprio sul palco dell'Ariston. Poi addirittura lui dice che naturalmente ci saranno anche delle tasse su questo compenso. Queste tasse che lo Stato italiano prevede sulla beneficenza se ne farà carico interamente Celentano, così come tutte le spese che lo stesso artista coprirà per il soggiorno a Sanremo. Quindi sappiate che tutti i soldi che lui guadagnerà andranno in beneficenza, vuoi a un ospedale, anzi vuoi a più di un ospedale, vuoi a diverse famiglie che stanno male. Vedremo un po' se effettivamente poi le famiglie dichiareranno di aver ricevuto questi soldi, soprattutto se arriveranno sui soldi agli ospedali. Vedremo come andrà a finire. Seguiremo, no, non mica siamo Striscia la Notizia, no, leghiamo e facciamo il nodo al fazzolettino, no, vedremo se sarà di parola, credo proprio di sì. Io vi riporto ancora un po' indietro nel tempo, era uno dei miei dischi preferiti nei jukebox, Johnny and Mary. Un po' gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston a Sanremo, ci sarà DJ Martin Zoberg, ci sarà poi chi, Ivana Marzova o cosa del genere, Rocco Papaleo, poi anche Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, ci sarà anche il CT della nazionale italiana, Cesare Prandelli, anche quello della nazionale inglese, Fabio Capello, ci sarà naturalmente la star femminile dello sport, Federica Pellegrini, e poi ci saranno i Cranberries e tanti altri che saliranno sul palco del Festival di Sanremo. Io però mi stavo chiedendo se in questo periodo di crisi non era meglio fare saltare una puntata o un anno Sanremo e magari con sti soldi recuperare qualcosina, no? Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono, ora che è inevitabile un dolore fantastico, nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce a ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, solo nell'anima. Io vivrò con te, guardandoti esistere e nel sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole, a chi cura di splendere. Ti voglio tanto bene e niente finirà se non avrai di luce noi ora dov'è. Arriverà quel raggio di luce, arriverà, passato questo brutto tempo questa settimana, poi ritorneremo con il bel tempo, ne sono convinto, perché ormai manca poco, poi arriverà anche la primavera, ancora un paio di mesi, poi arriverà la primavera in Sicilia, la primavera è bella perché poi i profumi cominciano a germogliare, i fiori, le piante, gli alberi, la zagara, e tutto questo renderà tutto così bello. come on hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Oggi chiudiamo con il bellissimo super tatuato Robbie Williams, Feo. A questo punto non mi rimane altro da fare che salutarvi, ringraziarvi come al solito per esserci stati, rinnovare l'appuntamento a domani, domani ancora dalle 17 alle 19, salutare naturalmente quanti seguiranno la replica in notturna, quindi da mezzanotte alle 2 circa, darò vi d'antone tutto. Quindi a domani, fate i bravi se potete.